si fa contento, perché io t'abbraccio caro. Altro più non desio, altro non voglio. Mio figlio adorato, oh, quel gran gioia io sento in dirti amato bene.